audio, tutte ce le antenne. Quando se ne scendono le mie, allora vuol dire che non conto proprio un cazzo più. Ce l'ho dopo tanto, Io mi sono un po' disintossicato dalla radio, sto facendo più radioascolto, poi tra visite qua, visite là, e ora ne ho già le balle piene di queste feste. Bene, sì, l'antenna c'è ancora, ho visto, stavo facendo le prove poco fa, i radiali ci sono tutti, l'antenna è dritta, cazzo ogni vento ieri notte, ciu. Sì, solo ieri notte, perché stamattina niente. Anche stamattina, poi quando siamo usciti per fare la spesa si è calmato però, eravamo a Piazza Le Segni ed era già calmato, era mezzogiorno e mezza forse anche l'una. Ehi, va bene, molto si sente il vento, un pochino. No, un pochino, ma niente di fastidioso. E beh, come gira qua? State entrando, io praticamente sto accendendo poco e niente per l'ascolto, poco e niente. E così, dai. Vabbè, la futidini, io va bene lo stesso. Ogni tanto basta entrare, chi ne ha voglia entra, chi no rimane in ascolto, non c'è problema. Adesso vado a fare altre commissioni. Farmacia, forse tabacchino, vediamo se mi fa fare una ricarica. È così, comunque preferisco molto queste giornate che poi dove è tutto aperto, no? Quasi tutto, vabbè, a parte i bar, che non queste giornate di festa proprio, mi Santo Stefano, Natale, ma per carità, guarda. Prima infatti alla fine, già va bene lo stesso. Ehi, peccato per i bar, il caffè, vabbè, pazienza, me lo sono fatto a casa, però quello del bar è sempre più cremoso, più denso, capito? Più profumato e tutto. Bene Claudio, dai, adesso preparo, devo buttare anche la differenziata, poi al limite se non voglio più tardi accendo un po', dai, almeno sentire come quanti siamo, chi siamo. Tu che sei, sempre sei 36, sempre pochi siamo, vabbè dai, ciao Marco, lì mi metto a fare qualcosa qua, ci aggiorniamo le prossimine, ciao. Ciao, buona serata, buon tutto, dai, buon proseguimento di serata, ciao a tutti. Grazie, ciao. Qualcuno? Tutti a ubriacarvi siete andati. Bubu. Avanti chi è? Aiù, fatti sentire. Butta via tutto, sta uscendo malissimo. Fatti sentire bene. Peggio che mai, tutto a fischi. Oi, peggio ancora. Ancora peggio. E con chi stai parlando? Ah, senti questa portante piena di fischi e fischietti. Ciao Claudio. Ehi, già la sento, sì, arriva molto bassa qua. Ehi, anche qua non è che sia alta. Sentiamo 5, 6, ma c'è anche un fischio. Se non ci fosse il fischio e parlasse, probabilmente non riuscirei a sentirlo. Un babbasso arriva qua. Aiù, ragazzo, mettiti a posto e parla. Ah, oh là, ragazzo, magari ho 90 anni. No, assolutamente no. sì, magari fino a vero 90 anni, buco, cosa ne sai? Vabbè, quello sì, può essere, vabbè dai, comunque, io già sto andando bene, tu altrettanto, per cui meglio così, dai. Andava il panettone, me l'ha mangiato, sicché, anzi no, il pandoro, per cui problemi non nascio. Se non andiamo bene noi, allora non saranno i nostri. Ogni tanto può succedere che possa andare male, là, qualcosina, è meglio sempre una controllatina così alla grande. Io già sto sempre controllando, non c'è problema. Ok. Andare, ieri notte si sono fatte le ore piccole, fino alle 2:15 hanno modulato, io ho ascoltato e basta, perché io la notte non posso parlare, perché c'è la televisione qua, che mia moglie segue la televisione, per cui sarei rimasto anch'io, se no, sono rimasto in ascolto con le cuffie, e la poi mi si trovo di l'umbido. La stessa cosa per me non fa, perché una volta si collega mia figlia e mia moglie, e poi io disturbo, anche se c'è la mia stanza, capito? No, e poi non sta bene, la stanza accanto c'è quella stanza di mia figlia, cosa mi metto a parlare? Si sa, anche se la può chiudere le porte, però sempre un bisbiglio o qualcosa si sente, per cui no, è meglio silenzio. Certo che sì, già va bene. Appunto, per cui va bene. E da tardi ancora non si è sentito nessuno, sono già le 6:25. E nessuno si sente, vabbè, evidentemente stanno ancora brindando. Ehi, lasciare brindare adesso, sono finiti di vecchi intanto. Ehi, certo che a questo punto si può dire che sono finiti. Va bene, dai, comunque, per andare peggio è meglio che siano andate così come quest'anno. D'altronde la colpa di chi è? Di nessuno. La colpa è in parte, non del tutto, secondo me è sempre dall'alto, da molto in alto, perché se avessero fatto i bravi in agosto e anche prima di agosto probabilmente non saremmo stati a questo punto. Si conferma, però purtroppo c'è stato qualcosa che non è andata bene. Vabbè, pazienza comunque. Purtroppo è andata così, ma comunque c'è tanta gente che ha sofferto tanto, anzi, a dire la verità abbiamo sofferto un po' tutti, perché bene o male siamo dovuti rimanere per forza rinchiusi la maggior parte del tempo in tutto l'anno, e per cui andare, ma non è che mi sto lamentando, però avremmo potuto gestire meglio la situazione, cosa che l'Italia non è stata capace di fare, una gestione più ferrea e soprattutto più seria, dai. Lo so, purtroppo è andata così, cosa ci vuoi fare? Pazienza. Niente ci possiamo fare. Io me la appunto, intanto sono commissionato, chi se ne frega, però mi metto nei panni delle aziende, dei lavoratori che sono ancora in servizio, tutta questa gente qua, quelli hanno perso tanto, non solamente in libertà ma anche in soldi, perché non hanno lavorato e dunque non hanno guadagnato, perciò è stato un 2020 pessimo sotto tutti i punti di vista. Per non parlare poi della povera gente che purtroppo è deceduta a causa di questo accidentaccio del virus. Non dirà mai che mia figlia c'è un bar, quindi in 15 giorni di chiusura ha perso 13.000 euro, vedi tu? Lo credo, altro che. Vabbè, pazienza, come vuoi. Nella vita c'è anche di peggio, però se si va mi dici sarebbe stato sempre meglio. Vabbè dai, comunque c'è qualcuno che ha bisogno, che ha voglia di parlare? Siamo qua con i cancelli spalancati. Non è gana. Tutti in letargo sono, tutti in letargo, tutti attaccati alla stufa, so. Oppure allo gicolo, sicuramente più di uno ce ne sarà al circolo a imbriagarsi. I circoli sono chiusi, facciamo chiusi già da 3 mesi circa. Claudio Petisella! E dove è uno ne arrivi? Dove? E beh, io dici tutto. Come sta andando la situazione dalle tue parti? Ehi, ciao Giulio, non so se mi ascolti, buonasera, ciao Claudio. Dalle mie parti tutto a posto. Tutto un attimino. Allora. Oh, tu non ci crederai che si muove ancora di meno le stazionarie. Sono questa antenna, più acqua prende meglio è. Cosa ne dici? Giovanni? Siamo dei professionisti nella regolazione, cosa acqua? Loro la regolazione è fatta bene. E allora, va. Ah, poi è l'ultima come antenna. Cosa qui appunto? Chi mi vuole sentire? Mi sente che non mi vuoi in disabilità come te posso amare. Avanti Giulio, riprendi. Aspetta un attimino. Ah, in PP. Allora, in PP saranno più di 20 watt, invece in AVG 13, 12 watt. Vai Giulio. Ehi, ok, già va bene, dai. Già va bene Luca, lo so, il PP, d'accordo. Ma quello che conta è AVG. Beh, quando c'è anche un bel po' di PP vuol dire che quello è tutto causa del microfono. E poi tutto sommato la modulazione diventano watt anche, watt in potenza d'uscita, per cui va bene così. Anda bene Luca, alla grande, avanti qua. Già va bene, già va bene. Lascia tutto così Luca, ottimo per la truppa, va bene. Sto aspettando che scenda l'acqua dalla vasca perché è un po' lenta, quindi mi devo lasciare qua, sta. Ogni tanto mi lavo, sono da. Allora, mi sono lavato il 23 di dicembre, oggi mi tocca. Tutti i giorni avremo una vocale dita, non è che ti lavi tutti i giorni, non c'è un po' ci metto lo sapone. Ah, ok, io non lavoro, cioè, sono sempre pulito. E quindi non ti lavare, siamo più sporchi. Vabbè, ognuno si lava quando crede, è interessante che non diventa mai buttiluso, quello che interessa a Luca, per cui va bene così, non c'è problema. La gente che non si è mai lavata in vita sua, figurati un po', e tu ti devi occupare perché sei qualche giorno così senza fare la doccia. Poi, la capiti, dai. Falle le cose se le vuoi fare, se non le vuoi fare sono sempre per te. Avanti Luca. No, guarda, ti posso dire, a me di fare la giubbra fumata. Hai fatto bene, hai fatto bene. E questa è la cosa più importante, vedi? Interessante non puni mai l'azoto, ma che si pone l'azoto allora comincia a soffrire un po' galeggio, Se è profumo anda bene. Vero qua. Allora. Bisogna sempre si profumato. Gatto gatto, a te rispondo un messaggio, riprendi. E allora così la pedivella, non parte la pedivella. Siamo a fregati. Allora, ma da lì ha fatto, io non mi abbassata leva. Maria gatta. Ma cumari, noi siamo fortunati, grazie a Dio, ancora. E questo Giulio, quello che è morto a Nursi, poveraccio. Purtroppo queste cose danno dispiacere, non ci sono dubbi. Ma cosa vivo in base al destino, a volte è crudele. Non ci possiamo fare niente, guarda, proprio l'unica cosa che l'uomo non può fare è proprio quello, evitare certe disgrazie, nella maniera più assoluta. Purtroppo è così. Oi, vabbè. Vedi dove muore, che muore appena nato, vedi dove muore a 120 anni. E c'è quello che muore mangiando, c'è quello che muore nuotando, c'è quello che muore senza fare niente in tutta la vita, grazie a me se l'avanza. E così è un Luca, e cosa vuoi fare? Andiamo a campare, come andare la vacca andando a baciccia. Si conferma, vabbè, cosa vuoi fare? No, poveraccio, perché c'erano questi cavi, non doveva lui azzardarsi, avvicinarsi a questi cavi, purtroppo. E lì, in quei campi lì staccati, c'era la 15.000, era proprio fulminato. Allucinante, boh. 54 anni, ma si può morire. Ognuno di noi ha la sua destino, secondo me. Ah, questo sì, non ci sono dubbi. L'unica cosa vera, sicura è proprio quello. Il destino, dal primissimo momento che uno esce dal grembo della madre, da quel preciso istante ha un destino, che può essere un destino buono, un destino di vita lunghissima o addirittura di vita media, così medio lunga o addirittura corta. Vabbè, lui stava lavorando e ha avuto questo incidente. Però tu pensa anche ai 300 medici quasi che sono morti per curare gli scapestrati, queste persone incoscienti che andavano a farsi le ferie, le vacanze, che si hanno preso i contagi. E i medici per curare proprio loro, questa gente incosciente, ne sono morti 300. Ma infatti, c'è chi ha vita breve, c'è chi la vita se la fa lunga, lunga, anni e anni, così. E anche a fortuna, secondo me, è a fortuna. E vabbè, pazienza. Non sono cose belle, purtroppo. E poi queste persone qua, diciamo che sono degli eroi, ecco, chiamiamoli così. Perché se mancano loro, ciao, Ciao, vabbè, purtroppo ogni tanto ne muore uno. Tu pensa che mio cugino, lo stesso, è la vigilia del fuoco, giovane, 52 anni, un tumore se l'ha mangiato. Purtroppo sì, succedono queste cose. Anche ai più giovani, soprattutto quelli che hanno nella vita lavorato molto e che hanno vissuto una vita importante, mentre invece c'è gente che non ha fatto niente per mandare la sera, e quelli o per fortuna o per destino magari hanno vissuto 100 anni, e cosa vuoi fare? Purtroppo è così, la vita è fatta anche di queste cose, lo decide il destino. Avanti. Lo so, purtroppo è così, la vita è un po' così, dai. Poi c'è chi se la cerca anche, attenzione. E come hai detto tu, è la fortuna, è così, c'è chi muore così, chi muore qua, c'è chi se la cerca e purtroppo c'è quello che campa oltre i 100 anni, che alla fine poi la volta che arriva ai 100 anni si è arrivato, non è che... Anche ormai c'è, diventi bambino, ecco. Poi c'è quello che magari non diventa bambino, e vabbè, là. Prendiamola come viene la vita, avanti qua. E allora, prendiamola come viene. Come viene, viene. Se viene, viene. Se non viene, ci arrangia. E giù barella. Bambini diventa d'orecchione. Vedo giù. Chi ti ha dato il tipo di destino o di ricco che parla in campo, certe persone, vabbè, comunque, ognuno conduce la vita che crede, nessun problema qua, né cosa vuoi fare, d'altronde non tutti possiamo essere uguali, per cui c'è quella persona che vive in maniera esemplare, c'è quella persona che vive facendo stravizi, e che vive anche facendo il delinquente. Quindi quella gente, quei delinquenti non meriterebbero di vivere troppo a lungo, perché sono un problema per la società. Avanti Luca. Purtroppo ci sono anche quelle persone lì, esistono quelle, Giulio, esistono. Però quelli lì non moriranno mai, nel senso che sì, muoiono, attenzione, però nell'arco degli anni ci saranno sempre, come i furbi, insomma tutto, un po' tutto là, un po' tutto, e vabbè, là, se vuoi fare, purtroppo, e gai su conto, così è, cra, è così. Comunque, vabbè, non ci interessa niente, è interessante, cioè, godertele via. Ti volevo dire, claro, l'antenna, meno male che non si è capottata ancora. Mica qua ne tira il vento, a casa ne ha tirato, ma qua la marina ne tira il quadruplo di vento. È ancora lì l'antenna, sempre dritta, no, però, in quella specie di piastra in acciaio. Immaginate che ha radicato un albero di 1,5 metri di circonferenza, forse anche di più, 1,80 metri di circonferenza, radicato, un pino, l'amore che è caduto all'interno, dovevamo tagliarlo invece, non ce l'abbiamo fatta, ha fatto un danno allucinante qua in questa zona, un danno allucinante, vetri di butto, cassonetti stamattina li hanno trovati il giorno abbasso, ormai, capito? Ho fatto un danno allucinante. io non mi posso lamentare, quando hai una bella qualificazione come la mia, non ce l'hai, ce l'hai vista, è una che l'hai vista tu, quindi tu pensi che si muove e chi la mantova, non si muove, no? O manco ci la matti, la muove, avremo per muovere la mantova in chi. Tant'è, non ce ne sono di pure. Sono molto molto sereno adesso. Prima, se fosse stato ancora, ci fossero state le direttive sul petto, ieri notte mi toccava dormire in mansarda, guarda, tranquillo. Perché sarei stato la testa proprio sul petto. Però siccome adesso sono tranquillo non me la fu tenuta. La Mantova già non ne vola. I genitori a rimanere attaccati, vai giù. Eh beh, glielo credo, è così l'effetto, ma anche qua si sentiva durante la notte, soffiava che era una meraviglia. C'era un'orchestra sinfonica eseguita dal vento maestrale o cosa era, non lo so, a 90 km d'ora, non è possibile. Molto molto forte, è la mia antenna, nonostante canna da pesca, così chiamiamola, che pure in realtà non è una canna da pesca, ma l'avevo rinforzata e ho visto che tiene. Non sarà molto alta, d'accordo, però è tutta libera, tutta attorno, anche perché le case qui, palazzoni altissimi, non ce ne sono, dunque copertura non ne prende nessuna parte. Poi questo vento di ieri era un vento ciclonico, per cui rotteava e l'antenna muoveva e faceva il balletto, faceva da tutte le parti. Poc'anzi sono uscito a vedere se c'era ancora, c'è ancora, bella dritta, ferma, di lusso. Va bene, e non è la prima volta che io utilizzo questo genere di antenne, sono già intorno ai 3 anni più o meno, tra quella che avevo autocostruita e questa che è originale, all'incirca 3 anni e ho visto che regge. Vabbè, comunque, certo non siamo al mare, però diciamo che dal tetto, da sopra il tetto io non vedo il mare, per cui il vento arriva diretto senza nessuna copertura a riguardo dell'antenna. Va bene, dai, meglio così. Avanti, Luca. Diciamo questa boomerang è l'ultima, Poi secondo me posso anche attaccare qualche linea retta volendo, perché le stazionali poco si muove. In genere, Luca, la boomerang per il lineare regge a 300 watt in genere. Naturalmente tu 300 non li metterai mai, lo so benissimo, ma ne potrai mettere un centinaio e dunque sii tranquillo. Se proprio in caso di necessità, se ce ne fosse bisogno, ma vedo che non ce n'è bisogno assolutamente, perché esci benissimo, che mi arrivi 9 più 5 alla grande, dunque la radio è sempre la solita, non c'è niente da dire, per cui magari fossero tutti così. Va bene, dai, avanti Claudio. Luca si è uscito bene, anche lì da Marina, come si è organizzato, con 41 piccolina, esce molto molto bene, qua è più di 9 quasi 10, va benissimo la grande, non tocca più nulla, esce bene del radio con quel baracchino lì, e poi la casa tua è fenomenale, con quella che hai lì, quindi meno musiane di radio. Guarda, io sono del parere che uno, anche se ha un baracchino da niente, ecco, diciamo così, un baracchino da niente, poi sia quello che amare un apparecchio superiore, però la radio deve essere curata, nel senso che uno deve uscire bene, non tutto a fischi, ce ne sono tanti che escono a fischi, convinti che loro escono bene, ma non è così. Vabbè, io ho un macchinetto da niente, microfono normale, va bene, con 10 watt a voglia. E cosa vuoi fare? Tanto qua non posso fare altro. Poi sei venuto anche tu là per fare l'antenna, purtroppo c'è stato quel problema là. Poi, ripeto, mettendo questa antenna qua, con quel palo che io ho comprato, poi se fa una calata lunga, non mi cavi piede, io sono sicuro che non ce la fai a tarare l'antenna. Luca dice, tu hai detto che lo puoi fare di più, ma io dico intanto che non c'è motivo di fare di più, perché esci già bene così, per cui, ma in caso di necessità, si sa, esiste sempre il 747, no? Al limite. Ma la trombazofa, visto e considerato che va bene, perché io ho sentito i 9,5, ho sentito i 9,10 o 9,15, non mi fa nessuna differenza, e suppongo che anche agli altri sia la stessa cosa, anche per gli altri sia la stessa cosa. Perciò la trombazofa va benissimo, sei tranquillo, non fa interferenze, non fa niente, meglio di così. E chi è che vive meglio di te in frequenza? La rapidi, dai, avanti Claudio. Sì, datemi 5 minuti che devo assistere un attimo a mia moglie, arrivo subito. Guarda giù, ok Claudio, guarda giù, c'ho un alimentatore qua su. Sì, ho questo alimentatore, l'attacco dietro, non vedi un filo. C'ho qua purtroppo sul... come si chiama? Sul comodino, che sono qua in camera, stavo usando come, diciamo, stanza, uso con il baracchino qua, non posso metterlo da altre parti. Poi quando ci sarà la Fiat, la 25, allora sono costretto a smontarlo. Ma lo ripeto, se io lo nascondo bene non si vede, ma con un filo. Beh certo, va benissimo così, Luca, ma cosa devi fare, perché non è necessario fare di più. Per questa frequenza va più che bene quello che hai fatto e quello che fai quando lo trasmetti. Perciò non c'è problema, assolutamente, guarda, di fare di più, non è motivo, assolutamente Luca, nella maniera più assoluta. Io alcuni giorni fa mi sono recuperato un alimentatore di PC, mi sono recuperato, infatti i figli ormai li ho tutti quanti messi insieme, quelli tutti allo stesso voltaggio, ho fatto il mazzo, però adesso quando esco vado, mi compro delle boccole e mi metto le boccole e mi faccio anche così, i collegamenti alle boccole, per cui lo potrò utilizzare quello a 12 volt, la parte da 12 volt lo posso utilizzare anche per il baracchino, per cui va bene così, e quelli vanno bene perché sono stabilizzati al 100%, forse anche meglio di quei stabilizzatori, di quei alimentatori che usiamo noi, probabilmente sono anche stabilizzati ancora meglio. Va bene, dai, interessante. Peccato che non sono a 13,8, anche se so benissimo come si può fare per aumentare la tensione, basterebbe una resistenza nel millepiedi, cioè nell'integrato, e puoi portarlo anche a 13,8 o 14 volt. Ma a 12 volt va bene lo stesso, per il baracchino non c'è problema, è accettabilissimo. Avanti Luca. Ah giusto, ti fa bisogno, ce l'ho già pronto io, Sono voi due sventole, pensa che sono anche illuminate le sventole. Sono voi, se ti serve, ti trovo e te lo do. C'ha il bocchettone, già quello è già pronto. Ma mi sapere se ti serve te lo do, non c'è problema. No, ce l'ho, lo zio, l'alimentatore ce l'ho. Ne ho uno sui cinghi da 30 ampere, poi ne ho un altro che è da 9 ampere, però di picco, continui 7 ampere, e anche quello mi va bene per il baracchino. Più ho recuperato questo del PC, che me lo voglio, perciò per non buttarlo, chiaramente me lo completo, mi compro le boccole, quando capito lì dalle parti di Fusaro, vado, compro le boccole, e me lo sistemo per benino, mi metto anche l'interruttore, mi metto anche la spia, magari metto la lampadina anche a 220 volt, così è diretto, almeno so che quando tiro sull'interruttore mi si accende anche lo spioncino. E poi adesso che mi metto anche un frequenzimetro di quelli analogici, sicuramente, perché li vendono, costano una fesseria, e magari ci metto anche quello. E così mi diretto anche a fare un po' di applicazione elettronica come facevo quando ero più giovane. Tutto lì, Luca. Sì, io me l'avevo costruito per qua, però ho notato una cosa che mi dava scossa. Io lascio acceso l'apparecchio, no? Con l'alimentatore attaccato, sto col PL mi dà la scossa, perché sotto non c'è un buon piano di massa in questo appartamento, purtroppo sono i casi un po' vecchiosi. Invece con questo nuovo che ho messo, questo da 50 ampere, quelli della switching lo stesso, quelli cinesi, va benissimo, perfetto, fatti mi dà il vento, adesso è staccata, mi senti? adesso l'ho attaccata, la posso attaccare benissimo. E vanno bene, no? Comunque sono me l'ha scossa. Infatti io volevo sapere dov'è che l'hai comprato quello dai cinesi, in quale cinese l'hai comprato e cosa costa? Perché, no, ma non perché mi serve, sia ben chiaro, ma un alimentatore in più è meglio sempre averlo di scorta, non si sa mai. Siccome una volta il temporale, qualche anno fa, me ne aveva bruciato uno a 25 e allora ho dovuto ricomprarne un altro, l'avevo preso quello a 30, sempre switching. Ma questo dei cinesi ho sentito anche tante altre persone, dice che vanno bene, va bene. Dove l'hai comprato? Da quale cinese? No, io l'ho preso su eBay, 23 euro l'ho pagato, da 50 ampere. Ah, su eBay, ho capito, allora è tutto diverso. Va bene, dai. No, io alle volte compro su Amazon. Amazon va bene lo stesso. Anche se Amazon se lo merita, Non se lo merita perché non paga dazi. Paga lo 0,02% di tutto il suo fatturato. Mentre invece un artigiano paga lo 25, lo 27, lo 30, battendo. Incredibile, italiano. Vabbè, comunque. Però fa piacere perché trovi tutto lì e in due giorni ce l'hai, non di più, due giorni ti mandano il materiale a casa. E beh, lo stesso, due giorni no, fai 3, 4, 5 giorni lavorativi, da, e ti arriva a casa. Sì, vabbè, poi l'ho modificato, gli ho fatto i buchi, ho attaccato i buchettoni, quello nero e rosso, i cavi passano dentro, il cavo dell'alimentatore passa dentro, praticamente vedi frontale la, come si chiama, la, poi ci sono i fili, la, vabbè, già hai capito cosa voglio dire, non mi viene il nome adesso, non vedi niente praticamente. Ok, sì, ho capito. Sì, ma avete dovuto metterti anche nell'alimentatore un voltmetro per vedere anche la tensione che ti dà sempre, continua. Com'è a 12 o a 13,8 è quella la tensione? Com'è questo dei cinesi? Allora, come arriva è a 12, c'è un trimerino qua frontale, lo può portare a 13,8. Chissà, al massimo lo può portare a 15, se non mi ricordo male, 15-16, boh. Vabbè, no, basta a 13,8, anzi se non fai arrivare a 13,5 è ancora meglio, così ti riservi anche le lampadine del baracchino, non è il caso di mettergli tutta la corrente alle lampadine, perché quelli, già lo sai, sono soggetti, sempre lampadina sono soggetti a fulminarsi, per cui è meglio non esagerare con la tensione. A 13,5, te lo arrivo a 13,5, tanto è un 0,3 in meno e va più che bene, non c'è problema, sì. Beh, essendo a 50 ampere hai fatto bene aumentarti la tensione, perché no, se no ti avrei detto, ma se è a 12 volte tu aumenti la tensione, allora prendi un amperaggio, ma se vai a 50 ampere cosa ti ne affitti? Va più che bene, perché aumentando la tensione diminuisce l'amperaggio, lo sapevi quello, non negli alimentatori. No, non ho capito, aumentando il voltaggio? Aumentando il voltaggio, cioè la tensione, diminuisce l'amperaggio. Cioè più meno tensione, più amperaggio, meno tensione. Ah, non lo sapevo. Comunque, vabbè, l'ho messo a 13,8, volendomi anche adesso lo posso regolare, c'ho il coso, il tester. Ma non mi interessa, lo lascio così giù. Va bene lo stesso, cioè, tanto è che non mi dia problemi, tanto poi con questo freddo che sta facendo non c'è bisogno manco della ventola. Lo so, in questo periodo sì, è vero, certo. No, ma se puoi comprare un voltmetro da attaccare, guarda che quelli analogici, no, non analogici, digitali ci sono anche, oppure te lo compri analogico, sono un po' più grandi e va bene lo stesso. Anzi, della verità io gli strumenti analogici li preferisco a quelli digitali, la verità, però digitali esteticamente sono più belli, è la verità. Ma costano poco, mi costano siano 8-10 euro un voltmetro per la tensione o Luca da inserire nell'alimentatore. È un lavoro che ti puoi fare tu tranquillamente, non c'è problema. Vai da Bolzano e te lo compareggi. 8-10 euro e ce l'hai quello digitale. Sì, ma come va attaccato direttamente all'alimentazione la 13,8, giusto? Lui ti segna tutto? Allora, direttamente l'attenzione che hai nelle boccole la porti direttamente a questo voltmetro, a quello te lo segna, no? E come usare il test? Tu per, come fai a misurare la tensione di un alimentatore? Entri gli spinotti, cioè i puntali del test, li infili dentro le boccole, no? È lo stesso discorso, fai il collegamento così diretto e hai la tensione sempre sotto osservazione, no? Non c'è problema, capito? Se poi vuoi ti puoi mettere anche un interruttore, sempre per farlo più simpatico esteticamente, no? Non perché beh, serva, ma più simpatico esteticamente, o ti metti un potenziometro, ti metti e ti regoli anche la tensione, te la abbassi, te la aumenti come vuoi tu, o perlomeno ti metti un interruttore, te lo spegni o te lo accendi il digitale. Ma io dico che è meglio lasciarlo sempre acceso, in modo che ce l'hai sempre sott'occhio la tensione che ti sta dando e che sta arrivando al baracchino, capito? Adesso controllo giù su e via a vedere. Voltmetro così è. Sì. Digitale. E cosa è una miseria? Te lo sto dicendo, una miseria, veramente, guarda. Lascia vedere. Sì, 4,50 euro. Allora, c'era 2,10 euro, 2,70 euro. 50 spedizione, voltmetro digitale 4,5 30 volt, LED rossi da pannello, moto, auto, camper, imbarcazioni. E io quello devo prendere, quello per l'alimentazione. Tu comprendi quello che misuri almeno 30 volte, no? In modo che quando gli dai ti segna quello che gli dai e basta. Non comprare quello a 4 volte, se no te lo bruci. O uno che regga, che arrivi almeno a 30 volte, capito, Luca? Ti prendi uno di quelli e tu sei tranquillo. Tu devi vedere, la sassa ti costa intorno di 8-10 euro, non di più. Tu mi dirai, ma me lo faccio arrivare da fuori, visto? Te l'ho detto, costa 4 euro, 5 euro. Lì fuori, però compri la sassa, cosa stai lì? Tanto quando hai speso 5 euro in più non è la fine del mondo, a meno che non preferisci poter arrivare. Infatti sto guardando, ce ne sono tanti, 11 euro, sì, mi sa che lo compro. Tu poi se ce ne sono anche un pezzo, 0,28 centesimi. Voltmetro, pannello, monte, prende tensione, voltmetro. 1,10 poi dalla Cina. 1,10 e 1,22 di spedizione. Cioè costa per la spedizione che l'oggetto. Vedete, comprendimi. Lì sono da rapidi, girisi, da rapidi, sono di una complicazione assurda. Sì, è vero, magari hanno delle cose che vanno anche molto bene, non ci sono dubbi, però hanno una complicazione, pacca le dai. Compra roba italiana, compra Luca, tanto cosa, se spendi 6, 7 euro, 8 euro, 10 euro massimo, mi ti devo vedere, assassali, costeranno non più di 10 euro, non te lo posso garantire, perché se costano 4 euro fuori, significa che il commerciante qua lo paga 2 euro e magari se lo vendi 10 euro, sicuro è così, a meno che non vai in quel negozio che tutti conosciamo, che è ladro, per me è ladro quello, ma c'è quello di via 4 novembre. Allora qua ce n'è uno giù, voltmetro, amperometro digitale LCD, 100 volt, 10 ampere, da pannello, moto, auto, camper e barca, costa 4,50 euro più di 50 di spedizione e arriva, consegna stimata prevista 31 dicembre 12 gennaio. Ti puoi immaginare, cioè, pochi giorni ce l'hai anche, lo puoi richiedere e non se va da più. Hai detto che misura sino a 100 volt, così hai detto? Ho capito, scusa? Cosa hai detto? Che misura sino a 100 volt 30 ampere, così hai detto? No, allora 100 volt 10 ampere. Anche 10 ampere, perché se c'è l'amperometro va bene lo stesso, va tanto meglio. Se ti metti anche l'amperometro è tanto meglio, più completo diventa un alimentatore professionale, nel senso che hai tutto sott'occhio e va bene, perché anche l'amperometro è importante. Sempre che è importante l'amperometro, te lo spiego. Quando c'è ad esempio un riscaldamento, un qualcosa del genere, e tu in funzione normale è che arriva, tanto per fare un esempio, un baracchino da 10 watt può arrivare, che so io, a 5 ampere, facciamo questa misura, dai. Se vedi che ti aumenta, vuol dire che ti sta creando un problema, qualcosa. Allora puoi verificare, ecco perché è importante l'amperometro, Luca, anche per quello è importante, sembra così, ma è uno strumento, sembra uno strumento innocuo, no? Che non serve a niente, invece no, io dico che uno strumento è importante. Senza dubbio. Ci sei Claudio? Io sono qua. Mi ha ragione Giulio, io senza l'amperometro avrei bruciato la radio, lo sai. E c'è un componente interdetto sulla parte dell'alimentazione, c'era un assorbimento allucinante. Perché cosa ti è successo qua? Cosa è successo? Assorbiva troppo assorbimento, con poca potenza, 15-18 ampere, a livello di 100 watt, capito? Con 10 watt a livello di 100 watt. Un'esagerazione, con 10 watt, quando ti può segnare molto, 5 ampere, 6 ampere, ma diciamo che soprattutto un apparecchio transistorizzato, posso capire se magari può essere da volare, sai, ci sono le valvole, qualche assorbimento in più ci può essere, qualche punto di ampere, di ampere in più ci può essere, ma appunto è quello che stavo spiegando, io non è che sono un professore, però certe cose le so, e anche perché le ho vissute da giovane, da ragazzo, andavo in laboratorio e certe cose le ho sempre sentite da chi le sapeva veramente, cioè dai radiotecnici o qua. L'amperometro ci vuole, infatti gli alimentatori con l'amperometro sono molto efficaci per noi che facciamo radio, perché io ho sempre l'occhio sull'amperometro, ormai so quanto assorbo le radio e da lì me ne sono accorto, perché allora la potenza al massimo, guardo la 10 watt, 15, quasi 16 ampere di assorbimento. C'è qualcosa che non va, che cosa non lo so, perché giustamente non sono un tecnico, però c'è qualcosa che non va. Sicuramente sì, perché mi sembra molto esagerato, mi sembra un assorbimento così per pochi watt che stavi utilizzando. E all'ugrido, controlla qualche componente che magari è andato un po' in avaria, aprilo, accendilo, farlo lavorare e magari lo tocchi, perché magari ti rendi conto se senti qualcosa che scada troppo, qualche resistenza, qualche condensatore che è un po' in perdita, tutte queste cose qua, può essere, altro che... Vabbè, è da controllare, appunto è quello che stavo dicendo, l'amperometro è importante per quel motivo lì, per verificare certe cose. E devo dire anche che serve anche per il watt, perché se tu prendi un baracchino per dire che è a 5 watt, c'è la portante che su io sta assorbendo 3 ampere, 3 ampere e mezzo, 4 ampere, poi ne cambi un altro, lo vedi, senza bisogno nemmeno del wattimetro, questo mi assorbe di più, sempre che tutto sia sempre normale, che non scadi, eccetera, il baracchino, eccetera. Allora, a quel punto ti rendi conto, questo è più forte in uscita come watt dell'altro, e serve anche a quello, insomma, è un'indicazione utile, diciamo, dai. Avanti Luca. Ma perché tu pensi che sia un problema di potenza? Non so, no, è la radio grande, non è il baracchino. E forse è stato il baracchino, ma sarei sbattuto. È la radio grande, capito? La gemella di questa. Che ieri notte, proprio, non so se te ne sei accorto, ma avevo parlato proprio di quello con Marco. Mi assorbiva troppo, c'era un assorbimento allucinante, quindi ho cambiato radio. Però non so che cosa sia, da cosa sia derivato. L'alimentatore non ha niente, perché segna molto bene. Questo ad esempio sto andando con 10 watt, 15 watt di portante, 25, quasi 30 modulati, sta assorbendo neanche 10 ampere. Quindi è perfetta, capito? Però non so che cosa sia, tecnicamente io non è che sono preparato in materia per dirti quello, ci vuole la fermentazione per capire cos'è. Beh, sicuramente sì, è ovvio, gli strumenti in elettronica sono fondamentali, perché però alle volte quando è troppo evidente la situazione puoi sentire qualche qualche componente che ti sembra che scalda troppo, che senti che non è più nella norma sul riscaldamento, potrebbe essere qua anche quello, che lo sa, è da verificare, da vedere, i motivi possono essere tanti, Claudio, non è che ne puoi sapere così, perché l'elettronica è un enigma, è talmente difficile da capire che se non hai innanzitutto un po' di infarinatura stessa di pratica nell'elettronica, soprattutto se non hai gli strumenti idonei, non fai niente, non vai da nessuna parte, anche se hai la buona volontà, tutta la buona volontà di questo mondo, non c'è niente da fare. Va bene, vediamo se è rientrato Luca. Luca, non c'è, vai. Ehi, è un problema che non so che cosa può essere, se è un componente di quelli piccolini sulla parte dell'apparaggio, della fotonica, non lo so, non me ne intendo la verità, quindi non so cosa dirti. Non è che lo puoi sapere così, no, ad occhio o a memoria, non lo puoi sapere. Arrivato a un certo punto, soprattutto trattandosi di radio con un certo numero di anni di attività, ci vorrebbe lo schema elettrico e poi con un buon strumento, con un buon tester e controllare tutte le tensioni nei vari circuiti, sai che per dire, sai la cosa, lo schema elettrico, quello completo, però dove ci sono anche tutte le tensioni eccetera, sai che un determinato componente deve arrivare a tale tensione e uno queste cose, siccome sono cose che possono andare in avaria senza che nessuno se ne renda conto, allora ecco, diciamo che questa è un'analisi, ma è un'analisi soprattutto seria, se vogliamo, no? Intanto devi avere, ripeto ancora una volta, lo schema elettrico, saperlo leggere, e quello è molto importante, saperlo leggere, ma deve essere anche lo schema elettrico, quello chiaro, dove c'è tutto indistintamente, e poi saper usare anche la strumentazione per poterlo misurare, per poter misurare tutti i componenti. Non è semplice qua, non è semplice, guarda. Non è semplice, ma io così ho intuito che ci sia qualche integrato che è andato in avaria, sicuramente, capite, c'è un sorvolante allucinante, molto molto pericoloso, fortunatamente funziona la ventola, si accende subito la ventola, quindi raffredda il dissipatore, però è molto pericoloso, bisogna stare molto molto attenti. Sotto strumentazione, oppure darla a chi se ne intende e farlo dare una controllata, capito? Io di certo non sono in grado di poter fare una cosa del genere, una resistenza variabile, posso toccare chiaramente con lo schema in mano, con il valore eccetera, ma queste cose non si toccano se non sei preparato, perché rischi di fare più danno che altro. Certo, può essere così, alle volte magari diciamo che si altera una resistenza stesso, anziché da passare l'attenzione che deve passare, se ne dà un'altra, ed ecco magari è superiore a quello del dovuto, ed ecco che poi che ne soffre il resto della radio, il resto dell'apparecchio, certamente. Sono cose insomma da considerare, però fare un controllo del genere intanto ci vuole una grande pazienza e poi anche un po' di conoscenza dell'elettronica e soprattutto strumentazione e allo stesso tempo, come stavo dicendo, lo schema elettrico che uno lo possa leggere, perché non è facile nemmeno, non è che tutti sanno leggere lo schema elettrico, e sia ben chiaro, perché sembra così, ma anche quello è difficile da leggere, Claudio, se uno non ha un po' di dimestichezza nel farlo, è difficile leggere anche quello. Si conferma, devi essere preparato, conoscere i simboli soprattutto, perché se no rischi di prendere i fischi per fiaschi, è chiaro che è così. Sì, ma infatti adesso vado un pochino e dopodiché la mando magari al centro sicurezza da qualcuno, scrivendo le lo usiamo, però non ho mai messo l'occhio sull'ampermometro e mi è sfuggito, io non che me ne sono accorto. Fortunatamente è andata bene, capito? Vabbè, niente di che, dai, non c'è problema. Luca. Beh, certo, quello sì. Meno male che te ne sia accorto, perché, ripeto, magari può essere una fesseria, però poteva essere anche una cosa seria che ti poteva far bruciare, penso io, anche i finali. Non è detto, dipende sempre. Alle volte è un po' come le valvole, quando le valvole scaldano eccessivamente, cosa ne so, se c'è la resistenza ad esempio di caduta che è andata in avaria, la radio funziona lo stesso, la valvola accende, scalda normalmente, però non deve scaldare più di quella temperatura, perché magari la resistenza di ritegno, cioè di caduta, non funziona come dovrebbe, ed ecco che può essere così o qua. Non si sa mai. Io sto parlando di radiovalvolare, però è uguale, ho fatto solo l'esempio, perché anche nei transistor finali ci sono le resistenze di caduta, e basta che ci sia un qualche volto in più di passaggio, ed ecco che i finali scaldano di più, ed ecco che a questo punto a lungo andare, scaldando sempre di più, finisce che si sa, saltano, e così è. Insomma, è da fare un controllo. Ecco, è da fare un controllo qua. Sì, secondo il dubbio già facciamo, dai. Non c'è problema, adesso lasciamo passare questi giorni di festa ancora, poi ci mettiamo in ordine. Appunto, bisogna uno che ha le mani in pasta e che è, diciamo così, pratico. Già risolve perché controlla lo schema elettrico, controlla i vari stadi, se le tensioni arrivano giusti e si rende conto qual è lo stadio che è in avaria, anche se l'apparecchiatura sta funzionando ugualmente, però certe cose non è nella norma, un eccessivo riscaldamento, tutto lì. Vabbè, no, non avvisa quando si deve bruciare qualche componente che ti manda una tensione diversa, non ti avvisa se ti arrivano pure ai finali delle tensioni esagerate, no, non ti avvisa assolutamente. Purtroppo è così qua, adesso tu fortunatamente avevi tenuto d'occhio l'amperometro, è quello che ti ha messo in allarme, ed è giusto così. Vabbè, comunque. Io, dai, è risolvibile, dai. Sì, funziona tutti i 10 anni. No, ma già è successo con il 44 con la chiave del PS50. Ma questo tempo fa, ho fatto riparare, ma l'ha riparato Vittorio Gioca. Praticamente l'ho acceso, il ventatore, poi accendi la radio, cioè linea completa, sempre il 430. Come l'ho acceso questa luce bianca, subito l'ho spenta, come è possibile questa luce così intensa? Ma allora c'era un led con la resistenza, poi stata la lampadinetta con la sua originale, l'avrebbe bruciata subito. E niente, riprovo, tutto a posto, riprovo, ehi, questa luce in display che stava per scoppiare di quando era illuminato, l'ho spento, ho detto ma e ci andiamo, prendo il test, siccome dietro c'ha i collettori in più, no? Perché il PS50 che lo sai, c'ha il cavetto suo, il cavo suo, che va direttamente alimentare la radio, però c'ha dei collettori in più dove puoi attaccare un baracchino, perché lì c'è poco amperaggio. Sono andato a controllare in voce in uscita, 19 volts, così mi, il 4-4, 19 volts c'era io, allucinante. Sì, lo so, infatti te l'avrei detto, tu non mi avresti detto 19 volt, io ti avrei detto, è arrivato a 18 volt, perché di solito quando c'è una varia così, sale ai 18 volt, nel senso che non c'è una resistenza di caduta che vada bene, o perlomeno c'è qualche condensatore che si è aperto, c'è, eccetera eccetera, o addirittura può essere anche un diodo Zener che si è rotto, ed ecco che la tensione non è più livellata a quella 13,8, e magari che arriva con tutto, cioè direttamente dal trasformatore. Una volta che è raddrizzata ti arriva quella tensione lì a 18 volt, ti arriva. Ti avrei detto io, se tu non mi avessi detto 19 volt, io ti avrei detto allora tu hai avuto la tensione a 18 volt. Siccome le lampadine hanno un po' di tolleranza, ce l'hanno, sono costruite per essere funzionanti a quella tensione, però quando incominciano a illuminarsi un po' di più funzionano, accendono, però non più di tanto, non è che reggono molto. Perché? Perché il filamento diventa più incandescente e a un certo punto salta anche quello. Perché così? Perché sanno